9 in punto. Buongiorno da Gianfranco Fabi. Come vi dicevo, Stergiolino tornerà lunedì. Oggi siamo qui a parlare di crescita, a parlare di prodotto interno lordo. Il nostro numero verde 800 24 00 24 per le vostre telefonate, il 349 238 6666 per i messaggi SMS. La crescita, quindi, una crescita su cui si discute molto in questo periodo, perché la crescita non c'è. C'è stata una crisi anche molto forte del 2009 e si parla, sì, di exit strategy, di come uscire da questa crisi, ma qualche piccolo passo avanti sembra che si faccia. Il PIL, questo prodotto interno lordo che misura la quantità di ricchezza prodotta in un paese nel corso di un anno, è cresciuto, o nel corso di un certo periodo, è cresciuto nell'ultimo trimestre dello 0,5% in Italia. Questo ha detto l'Istat e questo è stato preso come una nota positiva. Positivo certamente il fatto che sia cresciuto rispetto a un periodo come il 2009 dove era fortemente calato. Ma indubbiamente lo 0,5% non è gran cosa. Altri paesi crescono più velocemente, gli Stati Uniti, ma soprattutto la Cina. Ma il PIL è un sistema, un metodo statistico valido, ancora valido per misurare la crescita? Ecco, questo è stato messo sotto critica, se non sotto accusa, negli ultimi mesi. In Francia, per esempio, il presidente Sarkozy ha incaricato una commissione nell'autunno scorso di mettere a fuoco questo problema e di vedere se a fianco del PIL non fosse necessario mettere qualche altro elemento per giudicare la crescita di una nazione. Una commissione che è stata guidata dal premio Nobel Joseph Stiglitz e dall'economista Fitoussi. Ecco, questa commissione ha comunque rilevato che il PIL resta come un elemento utile per designare, per definire appunto la crescita di un paese, ma che il sistema statistico dovrebbe mettere a fuoco altri strumenti, altre misurazioni per misurare forse non tanto la felicità. Qualcuno comunque, e vedremo, sta cercando di misurare anche la felicità interna lordra, ma comunque la qualità della crescita, la qualità del benessere. Ecco, parliamo oggi di questi temi con alcuni nostri ospiti che vi presento subito. Innanzitutto qui in studio con me è Giuliano Noci, economista ordinario di marketing al Politecnico di Milano. Buongiorno professor Noci. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, il concetto di crescita, questo concetto di crescita quantitativa, è un concetto ancora valido, che è comunque utile per giudicare come va un'economia? Ma diciamo che vi è un grandissimo dibattito, come lei sottolineava, sul concetto di prodotto interno lordo. Io ritengo che non possiamo prescinderne comunque anche nel futuro. Emerge probabilmente la necessità di andare a complementare questa grandezza così importante nel dibattito odierno con alcune altre variabili. Ad esempio ne cito una, il tema di come sia rilevante ad esempio il risparmio privato e quindi andare a capire l'entità del risparmio privato di un determinato paese. Abbiamo visto come in molti paesi il PIL cresceva, ma cresceva grazie anche al fatto che ci fosse un livello di indebitamento molto elevato, e i conti purtroppo ci hanno poi dato evidenziato la difficoltà che questi paesi hanno trovato. Ecco, anche perché alcuni paesi, se pensiamo anche agli andamenti demografici, alla struttura della popolazione, alla struttura del territorio, forse non hanno così bisogno di crescere come in passato, oppure la crescita può portare più problemi che soluzioni. Ma una crescita può essere anche una crescita nella qualità, pur restando una crescita nella quantità. Assolutamente sì, in questo senso è opportuno andare a complementare e individuare altre variabili significative. Certamente, e qui però entriamo in parametri più di carattere qualitativo, il tema del livello di compatibilità ambientale, del livello di inquinamento che si manifesta in determinato territorio è un tema sicuramente molto importante. Poi si parla, come diceva lei, di felicità e di andare a misurare questo tipo di grande. Qui entriamo in valutazioni un pochino più soggettive che ritengo non propriamente potranno entrare nel futuro in quello che è un quadro statistico rappresentativo della situazione di un determinato paese. Ecco, informazioni statistiche soggettive. Allora vorrei far intervenire Claudio Bosio. Buongiorno dottor Bosio. Buongiorno, buongiorno. Claudio Bosio è vicepresidente di GFK EUISCO, direttore del Dipartimento Società e Politica. EUISCO, una società di rilevazioni sociali, ha proprio prodotto in questi giorni uno studio studio che si intitola Verso il Fil, felicità interna lorda, in cui si dice non intendiamo proporre formule nuove come appunto questa del Fil, ma piuttosto tentare un'esplorazione sul tema della felicità e delle relazioni esistenti tra la soddisfazione per le varie dimensioni del vivere. Allora, è qualcosa di alternativo o di complementare al PIL, al prodotto interno lordo, o questo Fil è qualcosa che è utile per riflettere sulla qualità della vita nel nostro paese essenzialmente? Dottor Bosio. Ma direi che questo approccio che ha avuto una sua, come dire, momento di grande notorietà quando Sarkozy ha promosso nel 2008 la commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi per vedere di cambiare un po' i parametri di riferimento nell'orientamento dell'economia francese e quindi poi nell'economia dell'UE, può essere letto in diverse chiavi. Cominciamo a dire quello che secondo me è improbabile che possa diventare, cioè è improbabile che questo approccio possa diventare un indicatore tipo Fil, un misuratore unico della felicità complessiva, tradotto in un numero, in un termometro facilissimamente spendibile poi anche nella comunicazione pubblica. È ancor meno probabile che possa diventare un sostituto diretto, immediato, nella logica buttiamo via il PIL e d'ora in poi ragioniamo soltanto in termini di felicità interna lorda. Credo che sia piuttosto un tentativo per renderci conto che se il problema diventa non la ricchezza economica ma il benessere, dobbiamo fare i conti con alcune dimensioni soggettive del benessere che sono fondamentali per dare una valutazione da questo punto di vista, e qui evidentemente si aprono alcune opportunità ma anche alcuni problemi che, se poi avremo tempo, potremo anche approfondire. Insomma, è evidente che questa prospettiva è una prospettiva tecnicamente un po' meno semplice e, se mi consentite, anche un pochino meno semplicistica della produzione di un indice tipo PIL, che ha peraltro avuto la sua legittimazione, la sua fortuna dal 34 in poi, quindi se circa un secolo che lo usiamo, qualcosa vorrà pur dire. E poi peraltro è un misuratore usato in tutto il mondo, in cui perlomeno si è raggiunta una certa omogeneità anche di analisi, per cui possiamo presumere che la valutazione che dà un paese è simile a quella dell'altro e quindi si possono fare anche delle valutazioni comparate. Però, dottor Bosio, solo per anticipare un tema, poi entrando anche nei particolari, la vostra indagine ha messo in risalto che magari senza arrivare alla felicità, però parlando di soddisfazione, c'è una sufficiente soddisfazione degli italiani, soprattutto sul fronte della vita privata. Mi sembra che la vostra rilevazione dice che gli italiani sono molto o abbastanza soddisfatti per l'81% per la vita privata e molto abbastanza soddisfatti per il 60% per la vita pubblica. Dottor Bosio. Corretto, corretto. Devo anche dire che queste rilevazioni noi le stiamo facendo almeno da 20 anni a questa parte, perché il tema del benessere e della soddisfazione, bisogna anche dire questo, non è esattamente una novità in assoluto. I temi del benessere, dell'analisi del benessere nella progettazione delle politiche economiche e dei comportamenti economici parte almeno dalla metà degli anni Ottanta. Ciò detto, è vero, noi abbiamo una situazione piuttosto stabile in cui la vita privata degli italiani è vista in maniera tendenzialmente positiva, meno positiva la vita pubblica, però anche qui in maggioranza diciamo che l'analisi e la valutazione del contesto tende verso la positività, il 60%, come ricordava lei, dà una valutazione positiva. Quello che va detto è che negli ultimi 10 anni in qualche maniera vediamo come la felicità privata sia diminuita, mentre la felicità pubblica o il benessere derivante dalla qualità del contesto e della città-paese in cui viviamo sia aumentata, il che può essere letto in connessione con altri fenomeni, tipo per esempio, io credo, anche l'effetto di impoverimento che negli ultimi 10 anni la società italiana ha avuto in termini di trasferimento proprio del PIL sul potenziale di acquisto dei singoli consumatori e anche direi per altri effetti di contesto che genericamente possiamo riportare sotto il tema dell'insicurezza che diventa, certo, che diventa un tema fondamentale. Grazie. In questo periodo. Dottor Boggia, qualcuno diceva la ricchezza non è fondamentale per la felicità, ma comunque un po' aiuta. Cerchiamo adesso di entrare sul tema del PIL e coinvolgerei il professor Pierangelo da Crema. Buongiorno da Crema. Buongiorno a tutti. Che ha scritto un libro intitolato molto esplicitamente La dittatura del PIL, schiavi di un numero che frena lo sviluppo. Perché da Crema questo titolo? Perché il PIL è ingannevole, perché è un'ossessione, perché nei numeri del PIL appunto si cerca una soddisfazione, una felicità che il PIL non potrà mai dare. Il PIL è ingannevole anche sul piano dei confronti internazionali, perché è chiaro che la crescita del PIL per un cinese sia un fatto fondamentale e lo sia molto meno per un cittadino statunitense. È ingannevole nei confronti internazionali perché ricordiamo quando Zapatero, con un orgoglio un po' ingenuo qualche anno fa, aveva dichiarato al mondo che il PIL pro capite spagnolo era diventato più alto di quello italiano. Ricordiamo anche la risposta, secondo me un po' piccata e un po' grottesca, di Prodi quando sosteneva che non era così sulla base dei dati Eurostat. La fragilità del PIL spagnolo si è rivelata si è palesata in un breve arco di tempo. Oggi la Spagna purtroppo sta male, quindi paradossalmente bisognerebbe parlare non solo del superamento del concetto del PIL, ma anche di qualità del PIL, una qualità che il PIL non contiene o non dichiara, sì che è simpliciter. Sempre a proposito di confronti internazionali, io ricordo i dati di un quinquennio abbastanza singolare perché è quello che ha preceduto la grande crisi, 2002-2007. Nell'Italia il PIL italiano in quel quinquennio è cresciuto mediamente dell'1,3% all'anno rispetto al 3,5% di quello americano. Il tasso di inflazione in Italia era grosso modo pari a quello statunitense, ma l'euro, raddoppiandosi quasi di valore rispetto al dollaro, di fatto ha reso l'economia italiana, che nel 2002 era pari al 12% di quella americana, l'ha resa nel 2007 pari al 19% di quella statunitense. Quindi diciamo, oltre che impreciso e inadatto ad esprimere un concetto di soddisfazione o di felicità, il PIL è anche inadatto ai confronti internazionali che i governanti amano o subiscono e con i quali insomma si lanciano messaggi di successo o di insuccesso. Ecco, da Crema, ricordo che il professor da Crema è ordinario di economia degli intermediari finanziari nell'Università della Calabria, tra l'altro è all'aeroporto, sta partendo proprio per Reggio Calabria, e lo ringraziamo per averci dedicato questi momenti. Da Crema, vorrei chiederle però, d'accordo nella critica possibile, ovviamente tutto può essere migliorato alla misurazione del PIL, però la crescita resta un fattore importante per un paese in qualunque modo poi la si misuri. Sì, ne sono convinto, non mi reputo un economista della decrescita. La crescita secondo me rimane una necessità, un'esigenza del mondo, un destino. Mi sembrano più utopistiche le posizioni che vedono nella decrescita un percorso possibile. Ho in mente, diciamo, un piccolo paradosso, se ho ancora qualche secondo. Per poterlo esprimere. Diciamo che non so, un paese piccolo come il Lussemburgo, che oggi è in testa al PIL mondiale, diciamo che improvvisamente smettessi di lavorare, diciamo che la metà della popolazione venisse presa da una specie di ossessione, l'idea che il sole possa spegnersi. Il Lussemburgo smette di lavorare per 10 anni, pensa a una macchina per evitare questo inconveniente. Per 10 anni il PIL del Lussemburgo crollerebbe. Poi diciamo che la sua intuizione, immaginiamo che questa ossessione si traduca in una realtà. Il piccolo Lussemburgo evita una catastrofe, inventa la macchina che evita un evento drammatico come lo spegnimento del sole. Ecco, quale sarebbe il PIL del Lussemburgo? Su che cosa avrebbe lavorato, diciamo, la popolazione del Lussemburgo per 10 anni? Ci sono molte cose immisurabili nella vita, così come non mi sembra così corretto poter parlare di felicità privata e felicità pubblica. La felicità è un concetto così ineffabile da potersi difficilmente tradurre nei numeri. Certo che i paesi poveri devono crescere, certo che i paesi ricchi devono concepire una qualità più che una quantità della crescita. Questo mi sembra il loro destino. Ecco, grazie da Crema. Indubbiamente parlare di PIL, tra l'altro molti ascoltatori ci chiedono di precisare che cos'è il PIL, cercheremo di farlo adesso, è importante per misurare con dei metodi statistici omogenei l'andamento dei vari paesi. Da Crema sottolinea appunto le difficoltà e i dubbi su questo fronte, così come parlare di felicità può essere un po' ambizioso. Forse è meglio lasciare ai poeti parlare di felicità e parlare di soddisfazione o di benessere o di capacità di rispondere alle esigenze primarie e anche secondarie, anche voluttuarie della popolazione. Tanti termini. Comunque il problema di fondo mi sembra quello della qualità della crescita e della quantità della crescita. Peraltro senza dimenticare che appunto anche attraverso un aumento della quantità della crescita si può migliorare poi, se questa crescita viene utilizzata in modo positivo per il benessere individuale ma anche per l'equità sociale, si può migliorare lo stato di vita di un paese. Io appunto risponderei a alcuni messaggi SMS che ci chiedono come si misura il PIL o come si stima il PIL. Il PIL indubbiamente è la somma di tutti i valori aggiunti, di tutta la produzione, di tutta la ricchezza che viene realizzata in un paese in un dato arco di tempo, quindi è come questo paese, come tutte i fattori di produzione, le persone, le imprese riescono a produrre qualcosa in più, a realizzare qualcosa, a metterlo sul mercato, a metterlo in commercio all'interno o all'estero, e con questo appunto è una misura della produzione di quanto questo paese cresce. Non so se il professor Giuliano Noci da professore vuole esprimere meglio questo concetto. No, direi che l'ha espresso molto bene. Io dichiaro che mi ergo a paladino difensore del PIL in questo contesto e faccio un po' l'avvocato, nel senso che io ritengo che il prodotto interno lordo come indicatore quantitativo, come diceva lei, facilmente comparabile in chiave longitudinale e nel temporale, quindi nel tempo e rispetto ad altri paesi, ha un valore ineludibile da cui non potremo prescindere. Certamente vi è la necessità di andare a complementare questo tipo di indicatore con valutazioni di carattere anche più qualitativo, ricordandoci però che queste valutazioni, essendo qualitative, essendo soggettive, molto difficilmente potranno essere oggetto di analisi comparate nel tempo. Ed è qui che cade un po' poi tutto il dibattito di che cosa fare per mettere in piedi un qualcosa che abbia in qualche modo un'analoga rilevanza rispetto al prodotto interno lordo. Certo che non c'è solo un problema di comparazione tra i diversi paesi, ma anche di comparazione tra i diversi periodi, cioè capire se un paese è dinamico, se un paese cresce, se un paese risponde alle sollecitazioni, sa cogliere le opportunità. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Stiamo parlando di PIL, di prodotto interno lordo, di come misurare la crescita, di come far sì che questa crescita, che comunque è indispensabile, non sia solo una crescita quantitativa, ma una crescita anche qualitativa, e come questa qualità della crescita può essere misurata. Molti ascoltatori con i loro messaggi SMS mettono in risalto alcune, possiamo chiamarle così, bizzarrie del PIL: se migliaia di auto rimangono in coda di tangenziale, bruciano benzina e il PIL aumenta. Non è assurdo. Ovviamente il PIL aumenta non tanto perché consumano benzina, quanto perché poi questa benzina consumata va prodotta, è stata prodotta, e quindi la produzione di benzina entra nel PIL, così come un altro ascoltatore dice: il terremoto ha prodotto PIL. Indubbiamente il terremoto, non tanto il terremoto quanto la ricostruzione, ha creato poi appunto una produzione di case, di nuovi insediamenti, che ha fatto crescere il PIL. Ma nessuno si spera che si faccia crescere il PIL attraverso i terremoti, ovviamente. Così come bizzarrie statistiche sono il fatto che se una persona sposa la sua governante e smette di pagarla, il PIL diminuisce. Ma al di là di queste bizzarrie statistiche, c'è il fatto che la qualità, il problema della qualità, è messo in risalto anche da alcune telefonate. Le sentiamo. Carlo da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ospiti. Grazie. Allora, io volevo, a proposito di questo, sul PIL, i parametri di efficienza, che sono ampiamente misurabili, non è oggettivo felicità, ma l'efficienza da un punto di vista anche economico. Cioè, se l'Amazzonia abbatte tutti gli alberi, vende, il suo PIL cresce, mi sembra. che è assurdo come, cioè, no, a parte mondiale, il problema mondiale, ma proprio per la nazione stessa. Quindi il consumo di riserve, quello che è riserva e quello che è produzione. Grazie, sì, indubbiamente alcune cose sono strettamente quantitative e poi dopo sul giudizio di qualità indubbiamente ognuno può avere le proprie posizioni e le proprie valutazioni. Produrre armi è qualcosa che fa crescere indubbiamente il PIL, ma si può essere contrari al fatto di produrre armamenti. Professor Noci. Sono assolutamente d'accordo, diciamo che poi dobbiamo tener conto che della prospettiva temporale che assumiamo. È pur vero che se in Amazzonia tagliamo alberi, cresce il PIL nel breve periodo. Potrebbe essere che però questa decisione di tagliare alberi senza ripristinarli si traduca in una minore capacità di crescita del PIL nel futuro. Quindi il tema è come usiamo i dati, come li interpretiamo, non è tanto un problema di indicatore, ma di modalità di analisi dell'indicatore nel tempo. Grazie. Fiorella da Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Io mi chiedo una cosa. Il PIL, che è il prodotto interno lordo, è come possibile in questo momento storico aumentare il PIL? Al di là di chi teorizza, diciamo, la decrescita, io credo che comunque questa debba avvenire comunque, perché se guardiamo i paesi del mercato comune, tutta una serie di paesi, tra cui la Spagna, il Portogallo, la Grecia, l'Irlanda e l'Italia, anche probabilmente, forse anche tutte le altre, dovranno tagliare dei costi, dovranno abbassare le loro, e questo vuol dire meno sempre meno, diciamo, soldi che girano, cioè, o comunque meno soldi che arrivano alla comunità, che dovrà spenderli per avere a carico i nuovi costi che le nazioni chiedono. Allora, questo PIL, io mi chiedo, e vorrei anche che sul suo giornale qualcuno ne scrivesse, gli economisti, mi spiegano questa produzione, diciamo, anche scelta, tutto quello che vogliamo, ma a chi è che comprerà questo nuovo aumento di produzione, quando tutto invece deve contrarsi? Cioè, se io chiedo come mai tutti ne parlano, ma nessuno mi spiega come può avvenire. Vediamo, è quello che stiamo cercando di fare oggi. Indubbiamente non è che si possa risolvere tutto con una battuta, con una breve analisi, però indubbiamente la crescita qualitativa è anche la crescita di un benessere complessivo. Noi fino a decenni fa vivevamo in case più piccole, adesso viviamo in case più grandi, le città indubbiamente hanno bisogno di investimenti per essere più vivibili, per fare zone pedonabili, per migliorare i trasporti pubblici, per creare le metropolitane. Quindi non poniamo limiti alla crescita qualitativa. Indubbiamente questa può essere un traino, e peraltro attraverso la crescita si crea occupazione, si crea benessere, si mette in moto quel circolo virtuoso dell'economia. Su questo vorrei sentire se è ancora in linea il professor Da Crema. Comunque, Da Crema, la crescita è qualcosa, lo diceva già prima, qualcosa che aiuta a risolvere i problemi. Sicuramente. E a proposito di crescita e a proposito di consumi, visto che diciamo l'ansia, per certi aspetti spiegabile, naturale, della crescita si sfoga nella possibilità di consumare di più, il gioco quantità-qualità è spiegato soprattutto dal rapporto tra consumi e investimenti. Voglio dire, gli investimenti sono pur sempre consumi, semplicemente sono consumi di qualità più elevata, sono consumi protratti nel corso del tempo, riguardano beni durevoli che vanno da una macchina per la produzione di qualcosa a una casa, agli investimenti che vengono fatti per abbellire, per rendere più confortevoli le nostre città. Ecco, l'investimento in sé esprime un concetto di consumo qualitativamente più elevato del consumo quotidiano, che potrebbe tradursi in quello che normalmente intendiamo per consumo di una collettività opulenta. Ecco, il rapporto consumi-investimenti è un rapporto adatto ad esprimere il gioco quantità-qualità. Si può crescere qualitativamente investendo nel proprio futuro. Grazie Da Crema, lo ringraziamo per essere stato con noi questa mattina, lo lasciamo prendere il suo aereo per Reggio Calabria, anche perché domani poi dovrà tornare a Torino, sarà ancora nostro ospite domani sera in una edizione straordinaria di Economia in Pagine dal Salone del Libro di Torino. Torniamo al nostro PIL e alla nostra crescita. Paolo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Desiderei fare due piccole osservazioni in breve. La prima è che noi abbiamo questo dato statistico che è il PIL, che è importantissimo e va comunque fatto. Ci sono poi tante altre classifiche che già esistono sulla vita dei vari paesi, le condizioni, il benessere, eccetera, esistono già. Il problema di ibridarli mi sembra molto complicato e non voglio parlarne. Vorrei invece mettere l'accento sul problema dei confronti tra un paese e l'altro relativamente alla crescita. La Cina, sappiamo, cresce all'8%, gli Stati Uniti al 3% crescevano negli anni addietro e pare che ancora oggi riprendano a quel ritmo. E i paesi europei sul 2%, l'Italia all'1%, nessuno ricorda che il Giappone da 10 anni cresce allo 0%. Qual è il problema? Il problema è che i confronti non devono essere fatti con grano salis, dicevano i latini, cioè tenendo conto che un paese sottosviluppato quando è decollato verso lo sviluppo economico cresce a ritmi altissimi e come è giusto perché deve recuperare un gap molto forte. I paesi sviluppati ovviamente crescono a un ritmo inferiore. I paesi con situazione demografica zero è difficile che possano crescere molto e anche un 1% forse potrebbe essere buono se solido e concreto e non nominale. Ora sì, grazie, mi sembra molto chiaro la sua riflessione. Indubbiamente nessuno pensa che l'Italia possa crescere all'8% o al 10% come la Cina, le condizioni sono indubbiamente diverse, però che l'Italia debba crescere un po' più dell'1%, almeno tra l'1 e il 2%, è un obiettivo non solo direi raggiungibile ma indispensabile per riuscire ad affrontare anche i problemi di un paese come il nostro, dove per esempio c'è una grossa differenza tra nord e sud del paese, c'è una grossa disuguaglianza sociale, ci sono ancora molti problemi di equità e molte zone in cui i servizi pubblici sono ancora carenti. Quindi una crescita per il nostro paese è indispensabile, indubbiamente non del 10%, ma almeno del 2. Professor Noci. Sono assolutamente d'accordo, ricordo ai radioascoltatori che in realtà paesi comparabili al nostro, Germania, Francia in primis, ma anche Regno Unito nel passato, avevano livelli di crescita del prodotto interno lordo almeno doppi al nostro. È evidente che noi non possiamo permetterci, non possiamo crescere come la Cina, abbiamo però delle significative potenzialità di crescita in cui, come diceva il collega, possiamo coniugare qualità e quantità. Un esempio per tutti, investimenti in tecnologie ambientali che portano a rendere l'aria più pulita, investimenti in centrali eoliche che portano a produrre energia rinnovabile, di fatto sono investimenti che migliorano la qualità della vita degli individui, ma nel contempo, come diceva il collega, permettono di aumentare il PIL. Quindi è anche in questo che vi è una possibilità di combinazione di quantità con qualità. Ecco, Claudio Bosio, vicepresidente di GFK Eurisco, che cosa chiedono gli italiani sul fronte proprio della soddisfazione personale e della risposta alle proprie esigenze? Ma direi che cosa noi abbiamo realizzato un quadro che fotografa la situazione, direi. Da che cosa emerge questo quadro? Da questo quadro direi che ci sono alcuni aspetti basici che possiamo definire come problemi critici prioritari che stanno alla base degli attuali deficit su quello che io preferirei chiamare, al di là del balletto di nomi eccetera, soddisfazione e qualità di vita, perché questo mi sembra poi il tema fondamentale che noi abbiamo visto e che può essere riflettuto da un punto di vista della più ampia categoria di felicità. Qui dentro direi che le due sfide fondamentali, sia in ambito privato, cioè della propria vita personale e familiare, sia in ambito pubblico, cioè del proprio contesto, città-paese in cui ci si muove, sono legate a due aspetti basici che riguardano le opportunità di lavoro, le opportunità di svago. E qui mi permetto di fare un'osservazione. Molto spesso quando ci scateniamo in questo tipo di analisi, la fantasia, diciamo, monta e va al potere su tantissimi aspetti, anche spesso un po' barocchi. Io credo che le nostre analisi ci richiamino ad alcuni fondamentali, che se andiamo a inseguire il senso che gli individui danno la loro vita e vogliamo colloquiare con questo senso, le prime carenze che oggi gli italiani dicono, mostrano di avere, riguardano proprio le opportunità per potersi realizzare sul piano della vita lavorativa e sul piano della vita personale, diciamo il tempo libero. Tra l'altro questa è curioso come questa indicazione venga fuori poi in maniera molto forte anche dal rapporto di Stiglitz e Stenefitussi, e sembrerebbe che questo dato sia un dato abbastanza come dire, condivisibile a livello internazionale, voglio dire, è stato replicato anche in realtà diverse da quella italiana. Bentornati a questa nostra ultima parte di Nove in Punto. Stiamo parlando di crescita, di prodotto interno lordo, di come misurare la crescita, di come far sì che la crescita diventi anche un fattore che aiuti la qualità della vita, quindi il benessere, la soddisfazione, se non la felicità personale. In questa prospettiva ne abbiamo parlato con Pierangelo da Crema, ordinario di economia degli intermediari finanziari. Abbiamo in studio Giuliano Noci, economista, ordinario di marketing al Politecnico di Milano, e in linea Claudio Bosio, vicepresidente di GFK Eurisco. Ma prima di lasciare a loro la parola per concludere, sentirei Angelo da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno e grazie. Un paio di considerazioni veloci. La prima è che io ritengo che, come analogamente si dovrebbe fare per le società quotate, sempre con maggiore insistenza, cioè quello di valutare ulteriori parametri di rischiosità o di tipologia di crescita, ai fini per esempio della redazione del memorandum per la quotazione di una società, quindi la corporate governance, la sostenibilità, eccetera eccetera, così questo si può fare anche, si possa fare anche per gli stati, e per esempio scomponendo il PIL sulle diverse aree geografiche. È evidente che una crescita concentrata in una sola area rende quel livello di crescita un livello di crescita poco solido per certi aspetti. La seconda osservazione invece, un po' più, diciamo, definiamola provocatoria, è il PIL illegale. Io ho la sensazione che l'Italia, per esempio, abbia mantenuto o tenuto un po' alla crisi, oltre che per la propensione al risparmio molto accentuata, anche per una presenza di PIL illegale che poi si ripercuote in termini di indotto sull'economia legale, che, se non ricordo male, ammonterebbe, secondo le stime, a circa un terzo rispetto al valore del PIL ufficiale. Sì, grazie. Forse un terzo è un po' eccessivo, bisogna capire anche cosa si intende per PIL illegale. C'è un'economia sommersa, c'è un'evasione fiscale, indubbiamente l'economia sommersa fa parte del PIL, perché comunque produce, comunque fa parte del circolo economico, e quindi indubbiamente in Italia qualcuno dice appunto che la crescita è sottostimata per effetto di questa economia sommersa, che entra solo in parte, può entrare solo in parte nelle statistiche ufficiali, e indubbiamente anche un certo disagio sociale provocato da una disoccupazione ufficiale che non si riscontra poi nella disoccupazione reale, perché alcuni lavori sono fatti, come dire, in nero. Ecco, questo disagio sociale è più limitato rispetto a quanto potrebbe essere possibile se fossero reali appunto i numeri che vengono portati alla ribalta. Allora, professor Noci, su questo fronte. Allora, innanzitutto ricordo che i calcoli del PIL tengono in parte conto, vengono corretti in relazione a quella che è il presunto livello di illegalità, quindi comunque di nero, come lei diceva. Certamente questa correzione parziale però esiste. Secondo elemento, mi sembra molto corretto quanto evidenziato dal radioascoltatore, cioè il tema della deviazione standard, comunque delle differenze che esistono in termini di prodotto interno lordo e di crescita tra le differenti regioni. Questo è un tema, ahimè, molto critico per il nostro paese, è un tema che riguarda in questo momento, negli ultimi decenni, il sud Italia. È un tema che dobbiamo affrontare attraverso politiche strutturate volte a incentivare, secondo me, non soltanto in nuove infrastrutture, ma anche nuovi settori e nuove imprese. In questo io credo, e quindi produttività, e quindi in questo io credo stia la sfida dei prossimi mesi per il nostro paese. Grazie. Paolo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Due note, diciamo, storiche e un contributo. La nota storica sono che il problema del PIL, della qualità del PIL, venne posto in un celebre discorso di Kennedy, che è alla base di molte poi elaborazioni della cultura democratica degli anni 70 e 80. In secondo luogo che lo spirito della Commissione francese era quello di pesare la qualità della produzione per, diciamo, fronteggiare la quantità apportata dall'economia tedesca essenzialmente, però era rivolta essenzialmente alla qualità privata. Invece, e qui passo alla parte della riflessione e proposizione, probabilmente si può pensare di misurare il PIL non solo in base alla quantità della produzione di beni e servizi, ma anche sulla qualità intesa con riferimento ai parametri di Kyoto. Noi sappiamo benissimo, già un accenno è stato fatto dal professor Noci prima, e certamente chi produce armi o chi produce petrolio probabilmente dovrà pesare di meno di chi produce dei prodotti riutilizzando degli scarti di produzioni primarie. Quindi da questo punto di vista è un qualche cosa che può essere pesato e quantificato anche nel tempo. Grazie mille, indubbiamente ci vorrebbe un altro tipo di misurazione, un bilancio sociale più che un bilancio economico. È chiaro che il bilancio economico, la produzione in quanto tale, deve prescindere dalla valutazione poi della qualità della produzione, anche perché la qualità poi è un fattore soggettivo. Un'ultima telefonata da Fabio da Milano, prego. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Pronto? Sì, ci dica. Sì, diciamo, per completare un momentino il discorso, volevo chiedere a proposito della qualità della produzione, come viene valutato nel PIL la produzione della pubblica amministrazione? Grazie, la domanda molto, molto secca. Indubbiamente la pubblica amministrazione produce, nel PIL entrano non solo la produzione di beni ma anche la produzione di servizi, e quindi anche i servizi hanno un valore, anche i servizi creano valore aggiunto, e questo valore realizzato dai servizi sia sul fronte privato sia sul fronte pubblico entra nel PIL. Professor Noci, non so se mi vuole bocciare. No, assolutamente, ha perfettamente ragione, anzi evidenzierei una cosa ulteriore che stigmatizza quanto da lei detto, ovvero che in Italia abbiamo un'incidenza sul PIL della spesa pubblica molto rilevante, oltre il 20%, cioè in Italia il contributo che la pubblica amministrazione dà al PIL è molto significativo, e qui ritorna il tema della qualità della spesa pubblica, cioè se questa spesa è così rilevante è in grado di indirizzare anche scelte industriali. In questo senso è la responsabilità del nostro governo, della nostra politica è ancora maggiore. Ecco, allora vorrei, ci avviamo alla conclusione, sentire da Claudio Bosio, vicepresidente di GFK Eurisco e direttore del Dipartimento Società e Politica, un po' in conclusione del nostro discorso. Abbiamo di fronte una realtà come quella italiana, che è una realtà che ha tanti problemi di disuguaglianze territoriali, di calo demografico per quanto riguarda l'Italia, gli italiani, di integrazione degli immigrati. Ecco, in questa prospettiva, per dare una fotografia molto rapida di come gli italiani vivono il problema della crescita, cosa può dirci Claudio Bosio? Allora, io cercherei di dire una battuta che è anche un po' un commento a quanto è stato detto fino adesso. A me è colpito molto, sono molto d'accordo con l'affermazione di un ascoltatore che diceva è molto difficile tentare di bridare, cioè di mettere insieme delle misure come quelle del PIL, che sono di tipo economico, con altre misure che riguardano la felicità, la qualità di vita, eccetera, che sono di natura psicosociale. Questo è un problema. Però se vogliamo affrontare i problemi di oggi, sia in chiave economica sia in chiave politica, dobbiamo avviarci lungo questa strada, perché i problemi ci pongono costantemente delle dimensioni di soggetti, di individui, di italiani che in qualche maniera ci ripropongono la loro dimensione soggettiva, che è fondamentale per poter risolvere i problemi grossi del paese. Do un solo dato. Oggi noi sappiamo che abbiamo un problema di stagnazione dei consumi, tutte le rilevazioni lo dicono. Bene, quando andiamo a vedere le motivazioni sotto questa stagnazione dei consumi, metà di questa stagnazione fa riferimento a dei vincoli di tipo economico che sono ben noti, distribuzione di reddito eccetera, ma circa un'altra metà fa riferimento ad un sentimento di insicurezza, di incapacità di progettazione oggi che ha il Paese, che ci riporta in qualche maniera questa dimensione soggettiva. Voglio dire, mi rendo conto che oggi è molto difficile acquisire e far dialogare queste due visioni, ma credo che se vogliamo risolvere e rendere virtuoso anche lo sforzo di produzione economico per il paese, dovremmo imparare a farlo sempre meglio. Grazie dottor Bosio, con questa visione, con questa, anche in fondo con questo ottimismo del voler affrontare i problemi con la capacità di poterli risolvere, di guardare in avanti per una crescita che è possibile anche sotto il profilo qualitativo. Si chiude qui la nostra trasmissione, ringrazio Pierangelo da Crema, Giuliano Noci, Claudio Bosio, che sono stati con noi, in regia Filippo Aureggi, in redazione Alessandro Marco Turli. A più tardi, anzi a lunedì, con Oscar Giannino. 9 in punto.